giovedì di 17 gennaio del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente, chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale, prendete nota, 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001-2001, via De Volci 56 00185 Roma, oppure basta consultare il sito della radio www.ondarossa.info. alla voce sostieni troverà anche la modalità PayPal. Siamo a Visionari, l'appuntamento con il cinema come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta di oggi la trovate sempre sul sito della radio alla voce trasmissioni Visionari. Lì troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 17 gennaio, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne e festival e poi il link per ascoltare la puntata precedente e le puntate del 2012. Cominciamo con i nostri ospiti. È con noi Esteban Vivaldi per parlare del progetto Era del Rame. Intanto Esteban, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, grazie tante. Allora, mi era arrivata questa mail, quest'email che parlava del progetto. Ho detto, perché no? Sentiamo un po' di cosa si tratta. Allora, spieghiamolo a chi ci ascolta, Esteban. Grazie intanto di averci... di esservi interessati a questo progetto. Era del Rame è un film che stiamo facendo e insieme anche un progetto di produzione e distribuzione di questo stesso film. Sì. Diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è non solo produrre un film, ma cercare di farlo vedere alle persone, che è la cosa più difficile, diciamo. Esatto, esatto. Diciamo che oggi come oggi non basta fare un film, ma in realtà ancora piuttosto, ancora più difficile proprio creare una struttura perché la gente possa poi vederlo, diciamo così. Sì, questo lo ripetiamo spesso, ormai si possono fare film anche a zero budget, a basso costo, sì. Esatto. Il problema però poi è farli fruire da assolutamente, quindi in realtà chi ha, diciamo, il potere della distribuzione o chi ha in mano la distribuzione in realtà ha molto più forza di quelli che riescono, diciamo così, a fare dei piccoli film o anche dei grandi film, tant'è vero che in Italia anche i grandi film spesso non hanno distribuzione, quindi è proprio un problema serio. Sì. E noi abbiamo cercato di diciamo aiutarci facendo questa struttura che in qualche modo è una specie di, prendendo l'idea da Vittorio Moroni, che non so se conoscete, quello del Tu devi essere il lupo. Sì, sì, come no. Esatto, lui ebbe questa idea geniale secondo noi, e cioè lui vendette il biglietto prima che ci sia il film. Sì, sì. E quindi noi abbiamo detto, ah, ma questa idea è bellissima, geniale, prendiamola. E quindi noi quello che stiamo facendo è questo, e l'abbiamo adattato, diciamo, al nostro film. Abbiamo fatto, ok, giriamo un pezzetto del nostro film e vendiamo intanto i fotogrammi del nostro film. Quindi noi quello che stiamo facendo è, stiamo già girando, stiamo già montando e stiamo, diciamo, vendendo il film a pezzetti, come se fosse... così, un film al trancio, ecco, una cosa del genere. Senti, facciamo però un passo indietro, parliamo un po' di questo soggetto, di questo argomento, Era del Rame. Sì. Di cosa si parla? Guarda, Era del Rame è la storia di una generazione, diciamo così, la mia in qualche modo, io ho 37 anni, che è cresciuta come dentro un grande abbaglio e che dopo 10 anni comincia a rendersi conto di questa illusione in qualche modo, e questa illusione faceva più o meno così, tipo studia che studiando un giorno sarai felice, ecco, uscirai dall'università, dai tuoi studi e finalmente potrai fare quello che hai sempre desiderato. Invece diciamo che la mia generazione uscita dall'università o da questo mondo, da questa bolla dove era stata rinchiusa per tanto tempo, si è trovato un mondo che era nel frattempo completamente cambiato. Eh sì. E quindi rendersene conto è difficile e diciamo così è uno shock in qualche modo. E quindi è la storia di questo gruppo di persone cresciuta in questa illusione e che finalmente riprende in qualche modo in mano la propria vita e decide di fare un film. Senti, quindi, un gruppo di persone che si conoscono tra loro, quanti sono? Insomma, dici un po'. Sono un gruppo di persone, diciamo, sia nel film che nella realtà. Un po' questi ruoli un po' si assomigliano in qualche modo, sono molto adiacenti, no? Anche nella realtà, cioè noi, che siamo un gruppo di una decina, quindicina di persone, che bene o male, quando possono, lavorano al film e quando no, lavorano ad altre cose per vivere, appunto sono un po' le stesse persone, quindi in realtà noi quello che ci sta capitando è che stiamo vivendo contemporaneamente quello che vogliamo raccontare in qualche modo. Sì. Senti, allora, finiti gli studi, dicevi di un mondo diverso da quello che si era prospettato, immagino uno dei problemi principali sia quello del reddito, della possibilità di lavoro. Raccontaci un po' di questa delusione, chiamiamola così. Diciamo che ce l'abbiamo davanti agli occhi bene o male tutti in qualche modo, quindi c'è poco da dire, insomma, ognuno vedendo nella propria vita se ne può rendere conto facilmente, insomma. Però appunto, senza che ci facciamo troppo prendere dal risentimento verso questa cosa, perché poi il risentimento spesso blocca, no? In qualche modo, quindi quello che succede a questi personaggi è quello di abbandonare un po' il cinismo che fino adesso li ha accompagnati e in qualche modo, ecco, creare come dei nuovi valori, ecco, perché la cosa più difficile è proprio abbandonare quelle vecchie illusioni, e cioè continuare così a pretendere, no, quello che ci era stato promesso, e invece cominciare a costruire un nuovo percorso, diciamo, quindi a costruire di nuovi valori più adatti alla nostra realtà. Sì. In qualche modo questo film è anche questo, anche la sua forma produttiva, non cerca più neanche l'appoggio dell'industria cinematografica, certo, perché in questa città è pieno di persone che vogliono fare film, è pieno, incontri dovunque, no? Ok, quanti di noi riusciranno ad accedere, no, a quelle forme classiche produttive? Certo. L'uno per mille, sì. E ben venga. Beh, e allora ci si inventa per qualcosa. Tutti gli altri devono inventarsi qualcosa per fare da soli. Esatto. Certo. E questo è un po' quello che facciamo noi. Quindi diciamo che noi adesso quello che cerchiamo è un'adesione soprattutto di pubblico, perché chi compra questi famosi fotogrammi del film in realtà sta aiutando la produzione e allo stesso tempo sarà un futuro spettatore di questo film. Sì. Quindi comprando un fotogramma si avrà un biglietto, diciamo, gratuito all'accesso alla prima del film. Quindi noi quello che vogliamo fare è creare un pubblico ancora prima che ci sia il film, per poter in qualche modo proporci a delle piccole sale e dire: guardate, noi abbiamo un film. Sì, vabbè, ma chi siete? Non siamo nessuno, però abbiamo già un pubblico che vuole vederlo, che sono tot persone e che entreranno gratis, ma queste persone porteranno con sé amici, fidanzate, fidanzati, parenti, no? Che invece pagheranno. Ecco, questa è un po' l'idea di creare una piccola distribuzione, come se facessimo dell'olio. Sì. Cioè ognuno fa dell'olio, sì, è abbastanza buono, però non sai perché lo Shan non lo vuole, perché il prezzo non va bene, perché capisci, no? Sì. E quindi devi in qualche modo trovare delle persone che possa interessare quell'olio e magari creare una catena di persone, un po' come i gas, magari una cosa, un piccolo agricoltore, ecco. Sì. Senti, Esteban, il titolo, Era del Rame, a cosa fa riferimento? Guarda, Era del Rame prende spunto dai furti di rame, che avvengono sempre più spesso, sì, e che in qualche modo rendono un po' quest'idea di impoverimento della società in qualche modo, proprio della nostra generazione. Infatti si dice che noi saremo più poveri di quella precedente, no? Sì. Quindi prende proprio spunto da questa cosa, che io andando in giro per la città si vede, appunto, questo ci hanno fregato la grondaia quattro volte negli ultimi tre anni, no? Poi la metti in PVC, no? Esatto, oppure furti di rame dei treni, sì, e queste cose qua. Mm-hmm. E quindi, ecco, rendeva un po' l'idea come una specie di nuova era, no? Dove le cose un po' cadono, decadono, e un po' e riprendono una nuova forma. Sì. Ecco. Senti, ecco, proprio a questo proposito, prima facevi riferimento alla creatività. Per uscire da questa situazione, rispetto al film la formula ce l'ha un po' spiegata, rispetto al quotidiano i protagonisti di questo film cosa inventano per sopravvivere, per insomma vivere al meglio? Un furto di rame. Un furto. Bene, allora non svegliamo altro, Esteban, però dacci riferimenti per saperne di più e per poter partecipare in qualche modo, certo, a questo progetto. Guarda, noi abbiamo aperto una specie di una piattaforma, abbiamo utilizzato una piattaforma, poi forse tra di voi ci sarà qualcuno che conosce o avrà già sentito parlare del crowdfunding, come no, cose, certo, di questo tipo. Sì, no? Sì, sì. Appunto, sono, per chi non lo sa, sono nuove piattaforme che in qualche modo... è come una vetrina, ecco, come una grande vetrina dove ognuno può mettere un proprio progetto, sì, e a qualcuno può piacere e aderisce dando, diciamo così, una quota, comprando una quota di questo progetto in qualche, sì, modo. Sì, sì, sì, sì, sì. In cambio avrà delle cose, questo è un po' il concetto. Calcola che è una cosa per cui si sta diffondendo così tanto che anche, non so, persone come Kaufman, lo sceneggiatore di vari film di Gondry, di queste persone qua, hanno utilizzato per fare i loro progetti, finalmente, certo, in libertà, no? Certo. Fuori dalle pressioni delle major e cose così. Kaufman, mi hai citato un grande, esatto, perché non, no, solo per sceneggiatore, dire, ma anche regista. Esatto, ma per dire uno, insomma, che non è neanche piccolo, e quindi, certo, uno dice, beh, certo, mazza, se manco Kaufman riesce a fare i film come li vuole lui, sì, e che sta succedendo, no? Allora, proprio per avere libertà così creativa, e molti stanno utilizzando questa formula, sì, quindi anche i grandi, figurati i piccoli, e noi invece che siamo piccoli spesso vogliamo, no, ma noi vogliamo lavorare con l'industria cinematografica, capisci? Perché ci sono dei paradossi, no? Sì, sì, sì, sì. Senti, in rete dove, come, cosa, appunto, bisogna digitare? Bisogna andare su capital.com/era del rame, e là c'è questa piattaforma che è italiana, credo, dove in realtà è una forma di adesione finanziaria, uno può diciamo comprare 5 fotogrammi, 10 fotogrammi, insomma può dare 5, 10, 25, 30 euro a questo film, e in cambio avrà delle cose che sono scritte lì. Bene. Ora, naturalmente non è solo importante magari aderire economicamente, visti i tempi, ma anche proprio così come adesione personale alla cosa, sì, e magari seguirla, e quindi se uno va su Facebook, cerca Era del Rame e mette magari il classico mi piace, può seguire un po' la lavorazione del film, fino a che quando questo film uscirà e potrà andarselo anche a vedere, insomma su YouTube anche, si possono cercare Era del Rame su YouTube, e vedere alcuni spezzoni, alcuni, bene, promo, bene, eccetera eccetera. Bene, allora ci sentiremo a progetto avviato, cioè nel senso che ha raggiunto altri obiettivi, e per cui un abbraccio e a risentirci presto. Va bene, ok, grazie allora. Ciao. A presto, un abbraccio. Ciao ciao. Ciao ciao. Esteban Vivaldi per quanto riguarda il progetto Era del Rame. Questo è Visionari su Onda Rossa. Per comunicare con noi, visionari@ondarossa.info, c'è anche la pagina Facebook sempre di Visionari. E un benvenuto ad Ascanio Petrini, regista del documentario Salva la Cozza. Ciao Ascanio. Ciao, ciao a tutti. Come stai? È abbastanza bene. Io la giornata... Ti sento un po' che vai e vieni. La campagna delle Puglie è così, purtroppo. È un po'... Allora, adesso ti sento un po' meglio. Allora, Ascanio, avevo visto il titolo del tuo documentario all'interno del FIDRA, del Genova Film Festival, e mi interessava la tematica. Allora, Salva la Cozza, di cosa stiamo parlando? È di un documentario che cerca di tracciare un parallelo tra la cultura del barese, un po' sconosciuta agli occhi dell'Italia generale, meno conosciuta di altre figure più o meno indicative delle città, sì, e quello che mangia, quello che è. A Bari c'è questa tradizione così cruda, appunto, di mangiare i frutti di mare, i polpi, gli allievi, le cozze crude, e noi abbiamo cercato di tracciare un parallelo tra queste due realtà. Sì. Senti, com'era cominciato questo viaggio? Proprio con questa intenzione, oppure è una cosa che è venuta fuori strada facendo? No, era partita proprio con questa intenzione, era partita proprio con la voglia di voler spiegare che questa forma di nutrimento così primitiva aveva un radicamento un po' nell'essere, essere crudi, crudo, un po' crudele, e forse c'è questa cosa. La gente conosce la Puglia, conosce il Salento, conosce i salentini per tante loro cose, il ballo, tutto questo, ma poco conosce la figura del barese. Chi è il barese? Lino Banfi? Non solo. Il barese è una persona strana che fa cose strane, tipo mangiare i polipi crudi e gli allievi e le seppie, che sono tutte cose che nessun altro fa. Ecco, c'è una unicità dell'esperienza in questa cosa, perché non ci sono altri popoli che mangiano così frequentemente la roba di mare cruda, sì, e non è come il crudo del plateau des fruits de mer parigino. Non sono solo ostriche, cozze, non sono quelli che scientificamente, ma sono anche, appunto, ripeto, il polpo è un'immagine, un'immagine forte. Vedere un uomo che mangia un polpo crudo a Bari si fa. Senti Ascanio, nel fare questa ricerca come vi siete mossi? Dove siete andati, tanto per cominciare? Abbiamo girato un po' la Puglia in generale, ma tutto intorno a Bari, perché questa è una cultura che è radicata nella provincia Bari, nella sua più stretta provincia. Diciamo, a Brindisi non si usa mangiare, o tantomeno a Lecce non si usa mangiare il crudo in questa maniera qua. Quindi noi abbiamo girato prevalentemente a Bari, spostandoci un po' nel Tarantino, perché Taranto è la patria della cozza. Il documentario Salva la cozza non vuole salvare la cozza in sé, ma vuole salvare un'abitudine, una tradizione. Solo che la parte di Taranto non l'abbiamo più utilizzata, perché noi volevamo dare un po' il gusto allo spettatore di mangiare i frutti di mare crudi, e Taranto con il fatto che c'ha lì il nostro sfondo, qualsiasi cosa non può sembrare commestibile, certo, e quindi abbiamo dovuto eliminare tutta la parte su Taranto. Senti, dicevi che Bari non succede in nessun'altra città questa caratteristica del mangiare i frutti di mare crudi. Da cosa viene? Qual è la storia di questa abitudine? Non siamo riusciti a trovarla, questa informazione. L'abbiamo cercato disperatamente, abbiamo cercato qualcun altro che avesse trattato l'argomento prima di noi, magari in forma anche più scientifica, ma non pare essercene traccia. Pare essere una cosa che è così naturale. La domanda più frequente era: da chi è imparato? Da mio padre. Mio padre, quindi il nonno, quindi il bisnonno. Una cosa che si perde nel tempo. E non è come la pizzica, dove i salentini a un certo punto si sono scordati di possedere quell'arte e poi l'hanno ricercata, ristudiata. Qui non si è mai perso. È una cosa che trascende il barese, quella di mangiare i frutti di mare crudi, e lo fa solo a Bari, evita di farlo in altri posti. Ecco, questa cosa, questa unicità però è curiosa, perché poi comunque si tratta di una città di mare, quindi aperta al mondo, insomma. Sì, qual è? Noi qui a Bari, quando diciamo il crudo, sì, è una cosa diversa, come dire mangiare frutti di mare crudi. Chiunque può dire: vabbè, io mangio le ostriche, vado al sushi. Ecco, il sushi è anche un altro argomento che noi trattiamo, perché i baresi, poi nel documentario c'è l'intervento di qualche amico speciale che abbiamo definito persone di Bari che hanno dimostrato la loro arte nel cinema, registi, attori, e loro sono tutti concordi nel fatto, per esempio Linetta Savino, che vive a Roma, c'ha tutte le amiche che dicono: dai, diciamo, andiamo a mangiare il sushi, lei dice no. Io il sushi non lo mangio, per me il crudo è altro, ha un altro sapore, un altro trattamento. Senti Ascanio, nonostante il titolo Salva la cozza, però questa è un'abitudine ancora forte, non rischia di andare persa, mi sembra che sia diffusa. No, non rischio di andare persa, però le istituzioni dovrebbero fare qualcosa per salvaguardarla. Poi c'è l'Europa con le sue leggi, le sue cose su come deve essere trattato il cibo, che fanno di tutto per... Poi c'è l'importazione di frutti di mare e robe che fa stare male la gente, insomma tutta una serie di elementi che rendono difficile questa cosa, e quindi adesso rimaniamo allo stato attuale che la passione è viva, ma nelle persone di una certa età, i ragazzi sono un po' più riottosi, vanno anche loro al sushi, insomma, non è proprio... Senti, al di là, che vive forte. Al di là di questo, però, uno dei rischi non viene dall'inquinamento del mare nel... Sì, uno dei rischi viene anche dall'inquinamento. Quando dico i trasporti, per me l'import-export, tutte quelle cose là fanno parte dell'inquinamento, ma più che dell'inquinamento naturale, che alla fine il mare è inquinato quanto l'aria che noi respiriamo, c'è l'inquinamento umano che fa che le leggi sulla conservazione obbligano tutti i commercianti a utilizzare dei prodotti che sono genericamente classificati come conservanti, che poi ci fanno molto male. Per me è più importante quel tipo di inquinamento che fa l'uomo sull'animale, diciamo, che vive in natura, come può essere un pesce, una cozza, no? Le cose non fanno male se per sé, cioè sono un filtro, sì, tutte le storie che si dicono, ma se tu sei abituato a mangiarle e hai creato degli anticorpi necessari, riesci a mangiarle. Ma se le cozze me le hanno tenute congelate 4 giorni e poi le hanno riscongelate, le hanno messe in un'acqua con l'ammoniaca e tutto, quelle mi fanno male. Certo. Senti, Ascanio, sono tutte leggende quelle del fatto che a Bari si prende il colera per le cozze. Non è vero che a Bari, quando fu il colera negli anni 70, era stato per degli scarichi di fogna a mare, cioè l'uomo aveva fatto quello che non doveva fare, non per la natura. Senti, Ascanio, dicevi che questa è comunque un'usanza che appartiene più ai vecchi, perché i giovani la stanno perdendo. Questo riguarda anche la pesca, perché abbiamo sentito anche altri autori di documentari che parlano di pesca al sud, e uno dei problemi è che la stanno un po' abbandonando tutti, e adesso va molto la pesca quella industriale massiva che è come per l'essere umano: il ricco resterà sempre più ricco, il povero sempre più povero, così è nella pesca. Cioè chi ha i mezzi e fare la pesca industriale, che dici tu, che potrà pescare nei mari dell'Oceano Indiano, che sono veramente inquinati, e portare il pesce a Bari per farlo mangiare crudo a delle ignare persone, sopravviverà sul pescatore che va da solo a mettere le reti, perché qui anche la marineria di Bari non è che sia tutta questa grande marineria, mica si può paragonare a Napoli o alla Sicilia, è fatta per lo più di pescatori col gozzo di legno che vanno a pescare i polipi, che è una pesca lenta, lunga, che non ha niente a che fare con le pesche industriali che si fanno, e quindi è come per l'essere umano. Certo. Non credo che per il mare sia diverso. Senti, Ascanio, per vedere il tuo documentario come bisogna fare? Per esempio, su internet hai un sito di riferimento per il tuo documentario? No, il documentario l'abbiamo fatto l'anno scorso, nel 2012, l'abbiamo mandato a dei festival in Italia, tra cui anche il FIDRA, ma più importante, secondo me, è stata più vetrina, più bella, è il RIF di Roma, che ci ha preso in competizione l'anno scorso. Non abbiamo vinto niente, perché i documentari italiani vincono sempre quelli che parlano di problemi e di cose tristi, mai di quelli futili e allegri. Questo è un altro problema. E si potrà vedere tra un po' su internet. Stiamo pensando di fare come fanno alcuni registi che mettono il film e si paga un piccolo biglietto e te lo vedi online. Puoi pagare un biglietto a 3 euro, per esempio, e vederlo in 10 persone, come si può vedere Marfa Girl, per esempio. Questo genere di cose qua, pensavamo di fare quello più che investire dei soldi nella pubblicazione in DVD, che francamente non abbiamo. Bene, Ascanio, è stato un piacere. Allora, magari ci sentiamo prossimamente per delle novità rispetto al tuo lavoro. Sì, certo, o ai prossimi nuovi lavori a cui stiamo lavorando. Esatto, con la Rabbit Film. Un abbraccio, a risentirci presto. Una piccola carta di produzione valida. Bene, Rabbit Film. Ecco. Benissimo, artigianale, questo è importante. Allora, un abbraccio e a presto, caro. Grazie a voi, arrivederci a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ascanio Petrini, regista del documentario Salva la Cozza. Visionari su Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, proseguiamo. Allora, Andrea Zanoli, co-regista del documentario Milongueros, ci sei? Sì, pronto, oh, buongiorno a tutti. Benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Buongiorno. Come stai? Bene, bene, bene, tutto bene, tutto bene. Allora, al freddo. Il vostro documentario lo avevo visto tra quelli in Lizza, al Via Emilia Doc Fest. Raccontaci un po' di questa storia, Andrea. Sì, allora è un documentario che abbiamo girato nell'autunno del 2010 a Buenos Aires. È fondamentalmente un ritratto di quelli che sono i più vecchi e famosi milongueros di Buenos Aires. I milongueros sono quei ballerini di tango, diciamo, quei frequentatori delle milonghe, che sono queste balere tradizionali, inizialmente un po' malfamate, di Buenos Aires. Un documentario che è nato un po' per caso, perché ci trovavamo io e Andrea, che è l'altro regista, lì per un altro lavoro. Stavamo facendo le riprese per un film di finzione sempre sul tango argentino, e mentre eravamo lì alcuni dei protagonisti del film, che facevano gli attori nel film, fondamentalmente erano questi anziani ballerini, ecco, diciamo, perché proprio anziani sono, nel senso che hanno un'età che va dai 70 agli 80 fondamentalmente. E è scattata cosa subito, conoscendoli, abbiamo un po' intuito proprio la potenza del loro vissuto, la loro passione per questo modo di vivere la notte, per questo risvolto culturale che è il tango in Argentina. E quindi abbiamo deciso, così un po' improvvisamente, abbiamo parlato col produttore del film, abbiamo detto sarà d'accordo se potevamo utilizzare l'attrezzatura per girare in parallelo, nei day off, nei momenti liberi, questo documentario. Quindi è stata una cosa nata un po' così per caso, diciamo, comunque è stato un colpo di fulmine. Senti, vero e proprio, non era pianificato. A proposito di questo colpo di fulmine, cosa avete scoperto? Che storia ha il tango? Che importanza e che storia ha in Argentina il tango? Allora, in Argentina il tango è proprio soprattutto all'origine, diciamo che rappresenta proprio un po' l'Argentina, ossia un miscuglio di persone e di culture da tutto il mondo, nel senso che nel tango, proprio musicalmente, nel tango tradizionale, c'è della musica tradizionale brasiliana e argentina, della musica del folklore, c'è tanta Italia, c'è la Spagna. Il tango lì per le persone, soprattutto quelle che abbiamo conosciuto noi, quelle più anziane, quelle più legate di ballo, vuol dire tutto. Non è semplicemente una danza, è proprio un modo di vivere, un modo di sentire, nel senso tutto passa in secondo piano rispetto al tango, anche proprio le vite personali delle persone, l'idea di trovarsi, di avere un lavoro fisso, una relazione sentimentale stabile, nel senso che sono tutti scapoli di 80 anni, diciamo, i ballerini con cui abbiamo lavorato. E soprattutto è qualcosa che nasce dal basso, nei bordi delle strade, nei bassi fondi, nei quelli che adesso chiameremmo ghetti o nelle zone pericolose. Era un ballo che inizialmente nasceva tra ragazzi, tra uomini, da piccoli hanno tutti imparato a ballare tra amici, per poi iniziare a poter frequentare queste milonghe, dei veri e propri luoghi dove si ballava, ma dove c'erano anche scommesse sui cavalli, gioco d'azzardo e così. C'è, insomma, proprio questo immaginario legato anche alla malavita, ma non alla malavita organizzata, alla vita di strada, insomma, ecco, sì, legato sì. Al tango tradizionale. Quindi non queste... Scusami, ti stavo interrompendo. Continua. No, dicevo, quindi queste persone che hanno iniziato a ballare molto, molto da piccoli, negli anni in cui comunque il tango veniva suonato dalle orchestre, quindi si andava a ballare, si trovavano delle orchestre grandiose come quelle di Troilo, di Sarri, Gardel cantava in questi posti, insomma, hanno mantenuto proprio un'affezione a questo stile, a questo tipo di mondo e a questo tipo di musica, tanto sì che loro ballano ancora il tango tradizionale solo con delle canzoni che sono state incise e composte tra gli anni 30 e gli anni 50, gli anni 60. Nessuno balla del tango moderno, insomma, c'è una grossa divisione anche tra diciamo quello che è la tradizione, quello che è la modernità e quello che noi siamo abituati a vedere di solito in TV o nei film, diciamo che è quello che loro chiamano il tango scenario, il tango spettacolare, il tango staccato dal piso, ossia sollevato dal pavimento, mentre loro proprio strisciano sul pavimento, si muovono in maniera impercettibile, è una cosa molto legata al sentimento, all'abbraccio con la compagna, al trasmettere delle emozioni a livello proprio corporale, ecco. Più che alla abilità tecnica. La cosa curiosa che mi dicevi, ecco, rispetto al... nonostante il fatto che sia un ballo di coppia, mi dicevi che i protagonisti anziani sono tutti personaggi che hanno fatto una vita solitaria, quindi è molto legato invece alla solitudine esistenziale come ballo. È proprio legato a un altro tipo di concetto di compiere la vita con le persone, nel senso loro sono un gruppo, ecco. Fossero amici da anni e vivono per andare a ballare la sera tra di loro. Diciamo proprio che abbiamo avuto la fortuna di accedere a questi luoghi in cui solitamente da turista ci puoi andare, ma comunque non balli e anzi non sono neanche particolarmente magari invitanti per un turista, diciamo, che non ha questa passione. C'è proprio appunto come le loro dinamiche relazionali tra di loro sono proprio come quelle di un gruppo di poco più che ventenni, escono la sera, si trovano per andare a ballare, stanno tutta la notte da milonga a milonga, fanno proprio come una specie di... Una piccola comunità, insomma. Esatto, sono una piccola comunità, quindi loro spartiscono tra di loro e danno tutto quello che hanno alla partner del momento in cui ballano. Certo. In un'intervista uno di questi signori dice che dopo una tanda, che è praticamente un ballo quando si va a ballare si ballano tre tanghi di fila, che sono più o meno 12 minuti, e dopo una di queste tanda una delle partner di ballo che poi non è che sono che te le chiami prima o così, tu arrivi nel posto, se una ragazza ti guarda, perché comunque c'è da dire che loro sono molto anziani, ma le ballerine sono molto giovani di solito in questi locali, se una ragazza ti guarda vuol dire che vuole ballare con te, e tu allora hai il permesso da lei, per il fatto che ti ha fatto questa mirada, ti ha guardato negli occhi, di poter alzarti e andare a chiederle se vuole ballare. E una di queste ragazze appunto diceva che dopo questo tango ha detto: ballare con te è un orgasmo di 12 minuti, proprio per questo tipo di intensità che loro mettono in questo rapporto, che li porta chiaramente ad innamorarsi molto spesso, ad avere molte compagne, poche che durano per tutta la vita, anche perché è una cosa un po' difficile da accettare, insomma, probabilmente questo fatto di andare questo stile a di ballare vita. Tutte le notti, sì, sì, esatto. Senti Andrea, prima facevi accenno a Gardel, mi è venuto in mente Tangos Lexil de Gardel, quindi ti chiedo anche qual è stato il rapporto del tango con il potere in Argentina, nel senso anche considerate le varie dittature militari che si sono succedute. Certo. Allora, il tango non era chiaramente ben visto durante la dittatura, un momento di buio. Coincide proprio con l'inizio della dittatura, con la fine della dittatura, non tanto per una questione apertamente politica di chi ballava il tango, perché di sicuro chi era un oppositore politico, c'era di sicuro chi era contrario, ma tendenzialmente il motivo principale era che erano degli agglomerati di persone, come tu ben sai, alle dittature non sono i luoghi dove, dove certo, si riuniscono le persone in maniera libera, oltre al fatto che comunque essendo una cosa nata nei bassi fondi o comunque per la strada o aveva anche insomma tutta una serie di cote criminale al seguito, diciamo durante la dittatura tante persone sono state arrestate a prescindere diciamo dalla questione politica. Di sicuro quello è stato il momento di lutto del tango milonga, delle milonghe, perché questo tipo di possibilità, di libertà di aggregarsi la notte non era tollerato. Mm-hmm. E infatti lì poi insomma cambia anche un po' tutto in quel periodo, non ci sono più le grandi orchestre, non si suona, non si produce, mm-hmm. si balla poco. Loro, cioè la gente ha continuato a ballare ovviamente, ha continuato a cercare di trovare il modo di andare, insomma, di trovarsi, di fare delle milonghe, ma non è stato molto più difficile, ovviamente. Certo. Senti Andrea, come sarà possibile vedere, fruire del tuo lavoro Mingheros, del vostro lavoro Milongheros? Allora, sì, il lavoro, tra l'altro scusa, volevo precisare una cosa che è importantissimo in questa nella riuscita del film, è stato soprattutto l'apporto di Olga Iwanatej, che è la persona che ha scritto con noi il documentario, che è uno di questi milongheros un po' più giovane, nel senso che ha una sessantina d'anni, è una persona diciamo di cultura in Argentina, è comunque uno studioso e ci ha permesso di entrare anche di capire un po' meglio quella che è la storia del tango. Senza di lui fondamentalmente non si sarebbe potuto girare anche la voce narrante del documentario. Il film è girando per festival tendenzialmente, al momento ha fatto un po' di festival in Italia, qualcuno all'estero, e da ieri, dall'altro ieri, solo per l'Italia è in vendita in DVD. Si può comprare online, se il sito da cui sono sicuro che si può acquistare è quello della casa di produzione, Pesca Production, e dall'home page del sito c'è la possibilità di acquistare il DVD in versione italiana. Bene. Andrea, è stato un piacere, un abbraccio, a risentirci per le prossime cose. Grazie mille, a presto. Ciao. Andrea Zanoli, co-regista del documentario Milongheros. Proseguiamo. In collegamento con Fabrizio Grosoli, co-direttore della 24esima edizione del Trieste Film Festival, che sarà al Teatro Miela a Trieste dal 17 al 23 gennaio. Fabrizio, ben ritrovato intanto. Ciao a tutti, ciao. Allora, si comincia oggi, di cosa? Allora, intanto noi ultimamente stiamo parlando un po' meno di festival, ma ci sono alcuni che riteniamo particolarmente importanti, sia perché a misura d'uomo, sia per la loro rilevanza. In questo senso, il Trieste Film Festival ha una lunga tradizione ed è un po' una porta verso la Mitteleuropa, ma anche tutta la parte del vecchio continente spostata ad est. Cosa offrirà quest'anno questa 24esima edizione? Ma guarda, innanzitutto permettimi di ricordare una cosa, che quest'anno abbiamo una nuova sala bellissima, si chiama la Sala Tripkovic, e quindi c'è un piccolo polo festival che si crea intorno alla zona del porto, e questo aiuterà, credo, la frequentazione, che è comunque sempre numerosa. Per quanto riguarda il programma, guarda, quest'anno ci tengo a dire una cosa, che naturalmente il focus è sempre sulle cinematografie dell'Europa centrale e orientale, ma abbiamo cercato di porre la nostra attenzione anche verso quei film che non sono i classici film che uno si aspetta dai paesi dell'est Europa, e quindi il tipico film d'autore meditato e che pure troverà spazio naturalmente nel concorso principale, ma anche a quei film che pensano a un pubblico internazionale, che sono film di genere, quindi in qualche modo, e che secondo noi sono dei film interessanti perché non sono soltanto dei film di serie B o di imitazione, ma che appunto trovano una loro strada originale. Per esempio abbiamo, che ne so, un film di fantascienza lituano che ha girato molti festival di genere che io ritengo molto stimolante, così come abbiamo dei thriller, delle commedie. Insomma, abbiamo voluto aprirci anche appunto a un panorama un po' a tutto campo, ecco, di queste cinematografie. Senti Fabrizio, intanto ti chiedo quante opere proporrete e poi se è previsto anche l'incontro con gli autori. Beh sì, naturalmente la forza e la tradizione del festival è appunto nel, come dire, nell'avere poi un'atmosfera credo molto calda e molto cordiale, per cui gli autori vengono tutti sempre molto volentieri. Ci sono per ogni concorso una decina di film presentati in questa nuova sezione pure, e quest'anno c'è anche un collegamento molto stretto con un'iniziativa che si fa da qualche anno e che ha un crescente successo, che si chiama When East Meet West, che è un forum di coproduzioni di progetti appunto tra Est Europa e Ovest, e per andare incontro anche a quel tipo di pubblico c'è una selezione, anche questa nuovissima, di film italiani recentissimi che sono stati anche presentati e premiati in festival recenti, Torino, Roma eccetera, pensando appunto a favorire la distribuzione internazionale di questi titoli. Fabrizio, qual è lo stato dell'arte nell'Europa centro e orientale? Guarda, mi sembra un momento molto interessante e molto stimolante. Naturalmente non è un momento facile anche per quei paesi, però c'è, come dire, un'atmosfera secondo me piuttosto stimolante da un punto di vista creativo. Facevo riferimento prima al fatto appunto che ci sono dei film che vanno al di là delle classificazioni che ci eravamo abituati a pensare per quei paesi, e credo appunto che la dimostrazione venga dal fatto che sempre di più abbiamo la possibilità poi di vedere anche nelle sale film di quelle aree, a parte il fatto che il film dell'anno da tutti i punti di vista a Amour è una produzione austriaca, e quindi da un autore di motore come Michael Haneke, che era venuto spesso con i suoi film a Trieste, questa mi sembra la dimostrazione del fatto che si sposti anche verso quell'area, diciamo, il centro del cinema d'autore oggi. Oh, prima non so se non credo che mi hai risposto sul numero di opere che proporrete, però volevo chiederti anche, hai accennato anche un po' alle sezioni, ecco, come è strutturato un po' il festival? Dunque, il festival ha molte sezioni tradizionali che sono appunto i concorso, lungometraggi, fiction, documentari, naturalmente documentari narrativi e cortometraggi. Ogni sezione, ti dicevo, ha una decina di titoli grosso modo. Sì, sì. In più appunto ci sono naturalmente diversi eventi speciali e programmi fuori concorso. Noi apriamo questa sera con il film di Elisabetta Sgarbi, Il viaggio della signorina Vila, e che è un omaggio, anzi un atto d'amore alla cultura a Trieste da un secolo a questa parte, e che ci sembra ovviamente un'apertura doverosa. Oh, 24esima edizione, un festival con una lunga storia, e come si è evoluta a tuo modo di vedere? Ma guarda, credo che la carta vincente del festival sia stata proprio il fatto che da subito ha trovato una sua ragione d'essere, storico, culturale, geografica, come lo vogliamo dire, insomma Trieste per qualche giorno ridiventa un po' il centro culturale di un'area che è quella della Mitteleuropa e dell'Est Europa, appunto, che è una posizione che per secoli ha mantenuto. Naturalmente il festival ha conosciuto poi una sua evoluzione interna molto precisa, e credo che quest'anno, ripeto, la strada sia quella di andare verso un allargamento verso tutti i generi e verso tutte le tendenze, quindi appunto nel non considerare appunto soltanto i film di autori consolidati come magari potrebbe essere stato in precedenti edizioni. Per avere maggiori informazioni sul programma ci dai riferimenti internet? Sì, naturalmente i riferimenti sono Trieste Film Festival, quindi www.triestefilmfestival.it. Fabrizio, è stato un piacere come sempre, un anche abbraccio, me, un in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Crepi, alla prossima, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Fabrizio Grosoli, co-direttore della 24esima edizione del Trieste Film Festival al Teatro Miela da oggi, 17 gennaio, fino al 23. Dovremmo avere un ultimo ospite. In collegamento con Alessandro Tesei, regista del documentario Fukushima, in uscita in sala mercoledì della prossima settimana, mercoledì 23 gennaio. Alessandro, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Salve, salve, grazie a voi. Allora, l'ho visto ieri in presentazione stampa, si parla di Fukushima, dove hai avuto modo di andare un anno dopo il disastro nucleare. Intanto raccontaci un po' di questa esperienza, Alessandro. Sostanzialmente potrei fare una sintesi abbastanza veloce, visto che potrei parlare per ore. Certo. La mia esperienza tratta, ovviamente c'è una parte, anche nel documentario si vede, che riguarda proprio l'esperienza all'interno della zona proibita. Sì. Che è stata un'esperienza molto forte sia a livello emotivo che a livello, appunto, anche fisico, perché fondamentalmente con un militare, con il terzo di militare che c'è in Giappone, la maschera, gli occhiali, la tuta, le cose a tracolla, è stato anche faticoso riuscire a portare a casa del buon materiale. Sì. E altre cose, sì, l'esperienza è tratta anche intervista a personaggi, vari personaggi che comunque sono protagonisti di questa vicenda, che vivono nelle zone immediatamente a ridosso della nuova zona, quindi persone che oltre all'incidente nucleare, oltretutto non scordiamolo, hanno subito anche il trauma dato dal terremoto e dallo tsunami. Allora, quindi, Alessandro, partiamo dalle vittime, nel senso, come i dati riportati nel tuo documentario, le vittime ufficiali, che sono poi quelle, i morti immediatamente dopo il disastro per il governo di Tokyo, sono 65, e poi Greenpeace invece ha stimate in 200.000 le vittime. E tra l'altro, no, quello si tratta dell'incidente di Chernobyl. Ah, ok, allora sì. Io ho sovrapposto le cose, perché sì, chiaramente sì. Ricordi anche le vittime poi dei disastri nucleari nel corso della storia, insomma. Però comunque, ad esempio, una cifra degli sfollati è intorno ai 70.000, se non sbaglio, 78.000. Sì, gli sfollati dalla zona immediatamente evacuata intorno alla centrale sono circa 70.000, quello sì. E però comunque poi non si fanno i calcoli in base ai contaminati, che poi sono morti in un secondo momento, chiaramente. No, questa è un'inesattezza in realtà, perché di morti a causa dell'incidente nucleare in effetti non ce ne sono zero, perché sì, si può dire che sono morte un paio di persone di infarto, un paio di lavoratori della centrale a causa di incidenti proprio tipo una trave che gli è caduta addosso, cose del genere, quindi incidenti di lavoro. Le vittime del nucleare non si vedranno adesso, si vedranno da qui a 10 anni come minimo. Anche perché, nonostante, sì, dicevi nonostante? Nonostante il fatto che comunque già si manifestano le prime forme problematiche alla tiroide sui bambini, perché i bambini hanno, nel senso, sui bambini si verificano in maniera molto precoce questo tipo di problematiche, quindi a distanza di 2 anni già abbiamo i primi bambini con tiroidi, con pus o con piccole manifestazioni tumorali. Oh, un'altra, anche perché uno degli aspetti riguardanti il disastro nucleare è che la contaminazione, come spiegate anche nel documentario, è cumulativa nel tempo, per cui un anno dopo i valori degli elementi radioattivi sono da 1 ai 7 milioni di volte superiori al limite consentito. In alcuni punti, logicamente, la contaminazione, tengo a specificare che non è a raggio, ma è a macchia di leopardo, quindi potresti trovare dei punti anche molto distanti dalla zona evacuata con altissima percentuale di radiazioni. Sì. Un'altra cosa è che proprio rispetto a questo il Giappone ha deciso di alzare i livelli di contaminazione a livelli che per noi sono ritenuti quasi letali. Sì, letale è una parola grossa, non è un discorso di letali, il discorso è che o meno in quasi tutte le nazioni il limite è un millisievert all'anno. Sì. Il Giappone appunto da un millisievert all'anno, che aveva anche il Giappone prima dell'incidente, è passato a 20 millisievert all'anno. Questo è inaccettabile, anche perché comunque permette al governo giapponese e alla TEPCO di evitare di risarcire le famiglie, perché ovviamente si abbassa, alzando la soglia, abbassi il numero di persone che vivono nelle aree ultra contaminate, altrimenti avrebbe dovuto risarcire praticamente un'intera prefettura e non solo. Senti Alessandro, il documentario uscirà nelle sale mercoledì prossimo. Che tipo di distribuzione, su che tipo di distribuzione avete puntato? La distribuzione è ancora in progress, perché abbiamo alcune trattative con alcune case di distribuzione, solo che stiamo valutando. Per il momento vogliamo che il circuito per le sale, per più sale possibili. Per il momento abbiamo a Roma il nuovo Cinema Aquila e il Palestrina a Milano e alcune sale nel centro Italia, fra Emilia Romagna, Toscana e Marche. Oh, un'altra cosa adesso che mi veniva in mente ripensando al vostro documentario è che per esempio avete riportato l'esempio di alcuni politici che in diretta televisiva hanno bevuto acqua contaminata o mangiato verdure contaminate e poi per dimostrare che insomma, non erano nocive, e poi si sono tutti e due ammalati di leucemia. Sì, no, quello che beve l'acqua no, in realtà, il parlamentare Sonoda che beve l'acqua ma non è stato riscontrato nulla, mentre invece Otsuka Noricardio, che è un famoso presentatore giapponese, è successo che appunto dopo aver mangiato le verdure provenienti dalla zona limitrofa alla centrale si sia ammalato di leucemia acuta. Mm-hmm. Il fatto ovviamente... Non è controverso, nel senso io ho insistito per inserirlo nel documentario proprio come per accendere il dibattito, perché il fatto che lui si sia ammalato dopo aver mangiato queste verdure può e non può essere correlato al problema delle radiazioni. Mm-hmm. Però come io non posso dire con certezza che lo sia, è impossibile anche dire il contrario, quindi certo. È un punto di riflessione secondo me molto importante quello, fa capire come le radiazioni e come certi tipi di dinamiche non sono chiare a nessuno, neanche nessuno può dire con certezza se una malattia è causa di un qualcosa o di qualcos'altro. Oh, come dicevamo poc'anzi, hai ricordato nel tuo lavoro anche gli incidenti nucleari del passato, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, passando per la Russia, appunto Chernobyl. Dopo il disastro, a Tokyo c'è stata una manifestazione di 60.000 persone, la più grande che ci sia mai stata in Giappone, e come esempio veniva citato il referendum italiano c'è stato quasi subito dopo l'incidente di Fukushima e ha visto insomma la vittoria dei no rispetto al nucleare, alla scelta nucleare. Sì, infatti in Giappone ho sentito che, parlando con varie persone, ho appurato che questo fatto che in Italia si sia potuto votare per uscire o per riprendere appunto il programma nucleare è una cosa che loro hanno apprezzato tantissimo, è un segno di civiltà che incredibile per i giapponesi. Ovviamente non sono a conoscenza del fatto che in Italia abbiamo grossi problemi col nucleare che ancora non sono stati risolti in realtà. Sì, a partire dalle scorie. Senti Alessandro, io ti ringrazio, le informazioni per quanto riguarda il documentario puoi darci anche un indirizzo internet dove si possono avere maggiori dettagli? Come no, guarda, l'indirizzo ufficiale che utilizziamo per le comunicazioni è fukushima@gmail.com. Benissimo, e c'è un sito internet? Sì, il sito è quello della casa di produzione, che oltretutto ne approfitto per ringraziare Christine Reynolds e il Teatro Primo Studio, che sono stati i nostri supporter principali, miei e di Matteo, perché non dimentichiamoci che Matteo Gagliardi è, oltre che montatore, anche autore di questa opera. Bene. Quindi... Allora, ci sentiamo prossimamente per magari per l'uscita in sala, per avere maggiori informazioni anche poi rispetto ai prossimi vostri lavori, va bene? Va bene, grazie mille. Ciao Alessandro. Ciao, ciao. E termina qui anche Visionari. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, per parlare con voi di cinema. Per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo anche la pagina Facebook relativa alla trasmissione, Visionari per l'appunto. Buon proseguimento.